Capitolo 70. Atamante. Atamante Leolio, fratello di Sisifo e di Salmoneo, governò in Beozia. Per ordine di Era, egli sposò Nefele, un fantasma creato da Zeus a somiglianza di Era per ingannare il Lapita Issione e che vagava sconsolato nell'Olimpo. Nefele generò ad Atamante due figli, Frisso e Leucone, e una figlia, Elle. Ma Atamante era urtato per il disprezzo che Nefele gli dimostrava e, innamoratosi di Ino, figlia di Cadmo, la condusse segretamente nel suo palazzo ai piedi del monte Lafistio, dove essa gli generò Learco e Melicerte. Quando le ancelle del palazzo la informarono dell'esistenza di codesta rivale, Nefele salì furibonda all'Olimpo e se lagnò con Era per l'oltraggio subito. Era prese le sue difese e promise: «La mia vendetta ricadrà su Atamante e sulla sua casa», a che Nefele ritornò al monte Lafistio, dove rese nota la promessa di Era e chiese la morte di Atamante. Ma gli uomini di Beozia, che temevano l'ira di Atamante più di quella di Era, non vollero dare ascolto a Nefele. E le donne di Beozia, che erano devote a Ino, lasciarono disseccare i semi di grano per compromettere il raccolto dell'anno seguente. Ino prevedeva infatti che, quando i germogli non fossero spuntati nei campi, Atamante avrebbe chiesto consiglio all'oracolo delfico e già aveva corrotto i messaggeri perché gli riferissero una falsa risposta dell'oracolo, e cioè che la terra sarebbe ritornata fertile se Frisso, figlio di Nefele, fosse stato sacrificato sul monte Lafistio. Codesto Frisso era un bel giovanetto. Sua zia Biadice, moglie di Creteo, si era innamorata di lui e, vedendosi respinta, lo accusò di averle usato violenza. Gli uomini di Beozia, credendo alle parole di Biadice, approvarono il verdetto di Apollo e chiesero la morte di Frisso. Al che Atamante, piangendo a calde lacrime, condusse Frisso sulla cima della montagna e stava per tagliargli la gola allorché Eracle, che si trovava per caso da quelle parti, intervenne bruscamente e gli strappò il coltello sacrificale dalle mani. «Il padre mio Zeus», esclamò Eracle, «odia i sacrifici umani». Frisso sarebbe tuttavia perito se un aureo ariete alato, inviato da Ermete per ordine di Era, o come altri dicono, per ordine di Zeus stesso, non fosse calato dall'Olimpo. «Montami in groppa», ordinò l'ariete, e Frisso obbedì. «Portami con te», supplicò Elle, «non lasciarmi alla mercé del padre mio». Frisso allora la prese in groppa e l'ariete volò verso oriente, diretto alla Colchide, dove Elio chiude i suoi cavalli nella stalla. Ma ben presto Elle fu colta da vertigini e cadde nello stretto tra l'Europa e l'Asia, ora chiamato Ellesponto in suo onore. Frisso invece giunse nella Colchide sano e salvo, e colà sacrificò l'ariete a Zeus liberatore. Il suo vello d'oro divenne famoso una generazione dopo, quando gli Argonauti ne partirono alla conquista. Alla vista del prodigio avvenuto sul monte Lafistio, i messaggeri allibirono e confessarono ad Atamante che Ino li aveva pagati perché riferissero il falso al loro ritorno da Delfi. E così tutte le trame malvagie di Ino e di Biadice vennero alla luce. Nefele chiese di nuovo la morte di Atamante e la rete sacrificale, che era stata prima calzata da Frisso, fu posta sulla testa del re. Soltanto un nuovo intervento di Eracle lo salvò dalla morte. Era odiava Atamante non soltanto per ciò che aveva fatto a Nefele, ma anche perché, d'accordo con Ino, aveva accolto il piccolo Dioniso, bastardo di Zeus e della sorella Ino, Semele, e lo teneva nascosto nel palazzo, travestito da fanciulla. La dea si vendicò, dunque, facendo impazzire Atamante, il quale, afferrato l'arco, cominciò improvvisamente a gridare: «Guardate quel cervo bianco, scostatevi, mentre io scocco la freccia!» E così dicendo colpì l'arco e ne fece a pezzi il corpo ancora palpitante. Ino afferrò allora Melicerte, il suo figliolo più giovane, e fuggì. Ma sarebbe scampata a stento alle frecce di Atamante se il giovane Dioniso non avesse temporaneamente accecato Atamante, cosicché egli uccise una capra invece di Ino. Ino salì poi sulla roccia Moluride, si gettò in mare e annegò, perché di lì Scirone usava precipitare i viandanti in mare. Ma Zeus, memore delle cortesie usate da Ino a Dioniso, non volle che la sua ombra scendesse al Tartaro, e la divinizzò come dea Leucotea. egli divinizzò anche Meliceerte come dio Palemone e lo mandò nell'istmo di Corinto a cavallo di un delfino. I giochi istmici, istituiti in suo onore da Sisifo, si celebrano tuttora ogni 4 anni. Atamante, bandito dalla Beozia e ormai senza figli perché l'unico superstite, Leucone, era morto di malattia, chiese all'oracolo delfico dove potesse stabilirsi e gli fu risposto: là dove le bestie da preda ti inviteranno a cena. Vagando verso il nord senza bere né mangiare, Atamante si imbatté in un branco di lupi che divoravano alcune pecore in una desolata pianura tessalica. I lupi fuggirono al suo appressarsi e Atamante e i suoi affamati compagni mangiarono le carni rimaste. Allora Atamante si rammentò dell'oracolo e, avendo adottato Aliarto e Coronea, i suoi nipoti corinzi, fondò una città che chiamò Alo per via del suo lungo errare, oppure dal nome dell'ancella Alo, e la regione fu detta Atamania. In seguito Atamante sposò Temisto ed ebbe una nuova famiglia. Altri narrano una versione diversa, e omettendo il matrimonio di Atamante con Nefele, dicono che un giorno dopo la nascita di Learco e di Meliceerte, sua moglie Ino uscì a caccia e non fece più ritorno. Un lembo di tunica macchiato di sangue convinse Atamante che Ino era stata divorata dalle bestie feroci, ma in verità, attaccata da una lince, essa era stata improvvisamente colta dalla frenesia bacchica. Strangolata la lince, la scuoiò con le unghie e con i denti e fuggì indossandone la pelle per partecipare a una lunga orgia sul monte Parnaso. Trascorso il periodo di lutto, Atamante sposò Temisto, che un anno dopo gli generò 2 gemelli, ma allora, con stupore e sgomento, Atamante seppe che Ino era ancora viva. Subito ordinò che fosse condotta a palazzo, la installò nella camera dei bambini e disse a Temisto: «Questa donna, una prigioniera catturata durante una scorreria sul monte Citerone, sarà un'ottima nutrice». Temisto, subito avvertita dalle ancelle, visitò la camera dei bambini e, fingendo di non sapere chi Ino fosse in realtà, le disse: «Ti prego, nutrice, prepara vesti di lana bianca per i miei 2 figli e vesti a lutto di lana nera per i 2 figli della sventurata Ino. Dovranno indossarli domani». Il giorno seguente Temisto ordinò alle guardie di irrompere nella camera dei regali fanciulli e di uccidere i 2 gemelli che indossavano vesti nere, risparmiando gli altri 2. Ino, tuttavia, aveva indovinato il disegno di Temisto e fece indossare le vesti bianche ai propri figli e le vesti nere ai figli della rivale. I gemelli di Temisto furono così uccisi e, all'udire quella notizia, Atamante impazzì. Colpì Learco con una freccia scambiandolo per un cervo, mentre Ino fuggì con Meliceerte, si gettò in mare e divenne immortale. Altri ancora dicono che Frisso ed Elle erano figli di Nefele e di Issione. Un giorno, mentre vagavano in un bosco, la loro madre li assalì in preda alla frenesia bacchica, guidando un ariete d'oro per le corna. «Guardate», balbettò, «questo è il figlio di vostra cugina Teofane. Essa aveva tanti pretendenti che Posidone mutò lei in pecore e se stesso in ariete, e la coprì sull'isola di Crumissia». «Che accadde ai pretendenti, o madre?» chiese la piccola Elle. «Divennero lupi», rispose Ino, «e ululano per Teofane tutta la notte. Ora non fatemi altre domande, ma salite su questo ariete, tutti e 2, e galoppate verso il regno della Colchide, dove regna Eete, figlio di Elio. Non appena arrivati, sacrificate l'animale ad Ares». Frisso seguì le strane istruzioni della madre e appese poi il vello d'oro dell'ariete nel tempio di Ares, in Colchide, dove fu custodito da un drago. E molti anni dopo suo figlio Presbo Citisoro, giunto a Orcomeno dalla Colchide, salvò Atamante mentre stava per essere sacrificato in un rito espiatorio. Il nome di Atamante è di solito connesso al mito di Atamania, la città che si dice egli avesse fondato nella selvaggia pianura tessalica, ma pare piuttosto formato da Ath, alto, e Amaein, mietere, e significa dunque il re offerto a colei che miete in alto, cioè la dea lunare del raccolto. Il conflitto tra le sue mogli rivali Ino e Nefele rispecchia forse un conflitto tra i primi abitatori ionici della Beozia, che avevano adottato il culto della dea del grano Ino e gli invasori eolici dediti alla pastorizia. Un tentativo di abolire il culto agrario di Ino per sostituirlo con quello dell'eolico dio del tuono e di sua moglie Nefele, la nube apportatrice di pioggia, fu sventato dalle sacerdotesse che fecero disseccare i semi di grano. Il mito di Atamante di Frisso ricorda il sacrificio annuale del re o del sostituto del re, dapprima un fanciullo che indossa una pelle di ariete, poi un ariete, che veniva celebrato dai pastori su una montagna durante l'equinozio di primavera, nella festa del nuovo anno, propiziatrice di piogge. Il sacrificio di un ariete a Zeus sul monte Pelio, non lontano dal Lafistio, si celebrava in aprile quando, secondo lo zodiaco, la costellazione dell'ariete era in ascesa. I capi del distretto usavano lottare indossando bianche pelli di pecora e il rito sopravvive ancora oggi nella scherzosa rappresentazione drammatica di un sacrificio seguito dalla finta resurrezione di un vecchio portante maschera da pecora. Le vesti da lupo, ordinate per i bambini condannati a morte, fanno supporre che la vittima indossasse un vello nero, mentre i sacerdoti e gli spettatori indossavano velli bianchi. L'amore di Biadice per Frisso ricorda l'amore della moglie di Putifarre per Giuseppe, mito analogo di origine cananea, e quello di Antea per Bellerofonte, di Creteide e Peleo, di Fedra e Ippolito, di Filonome e Tene. Il fatto che Nefele, nuvola, fosse un dono di Era ad Atamante, creata a immagine della dea, ci fa supporre che lo stesso Atamante, re eolico, rappresentasse il dio del tuono, così come il suo predecessore Issione e suo fratello Salmoneo, e che quando sposò Temisto, la quale nella versione euripidea del mito è la rivale di Ino, costei assumesse la parte di moglie del dio del tuono. Ino era Leucotea, la dea bianca, e dimostrò la sua identità con la triplice musa abbandonandosi a un'orgia sul monte Parnaso. Il suo nome, colei che rinvigorisce, allude a orge falliche e alla rapida crescita del grano. Prima della semina autunnale le si sacrificano fanciulli. Secondo la leggenda, Zeus stesso si dimostrò grato a Ino, che aveva ospitato il piccolo Dioniso, e Atamante porta in suo onore un nome agricolo. In altre parole, i contadini ionici riuscirono a comporre a proprio vantaggio le divergenze religiose con i pastori eolici. Il mito, tuttavia, è un miscuglio di elementi rituali primitivi. Vi è una chiara allusione al culto di Zagreo, che divenne poi il culto di Dioniso fanciullo nell'episodio di Atamante che scambia Ino per una capra. È un'allusione al culto di Atteone nell'episodio di Learco trafitto da una freccia e fatto a brani. Melicerte, il figlio minore di Ino, è l'Eracle cananeo Melkart, protettore della città, alias Moloch, il quale, come nuovo re solare, giunge all'istmo a cavallo di un delfino e la cui morte, al termine dei 4 anni di regno, era celebrata con i funebri giochi istmici. Si sacrificavano bambini a Melicerte nell'isola di Tenedo e probabilmente anche a Corinto, come pure si sacrificavano bambini a Moloch a Gerusalemme. Soltanto quando Zeus divenne re del cielo e usurpò gli attributi della dea solare, il vello dell'ariete divenne d'oro. E infatti il primo mitografo vaticano dice che si trattava del vello nel quale Zeus ascese al cielo. Finché il dio fu patrono dei temporali, il vello era rosso-nero. In una versione del mito, Ino è chiamata Gorgopide, volto arcigno, un appellativo di Atena. E il feroce scirone che faceva precipitare i viandanti dalla roccia prese nome dal bianco parasole, o più propriamente paraluna, che veniva portato nelle processioni in onore di Atena. La roccia Amoluride era evidentemente il promontorio donde si gettava in mare il re sacro o i suoi sostituti, in onore della dea luna Atena o Ino. Il parasole si usava probabilmente per rallentare la caduta. La morte di Elle per annegamento ricorda l'analoga morte di Ino. Ambedue sono dee lunari e il mito è ambivalente Esso rappresenta il tramonto notturno della Luna e, al tempo stesso, il declino del culto lunare di Elle e in favore del culto solare di Zeus. Ambedue sono dee del mare. Elle diede il suo nome a un famoso stretto. Ino Leucotea apparve a Odisseo in veste di gabbiano e lo salvò dall'annegamento. È più probabile che la tribù di Atamante sia emigrata dal monte Lafistio e da Atamania in Beozia al monte Lafistio e ad Atamania in Tessaglia, anziché il contrario. Egli aveva stretti rapporti con Corinto, dove regnava suo fratello Sisifo, e si dice abbia fondato la città di Acrefia a est del lago Copaide, dove vi era un campo di Atamante. A parecchi dei suoi figli si attribuisce la fondazione di città in Beozia. Atamante stesso è descritto in modo abbastanza plausibile come figlio di Minia e re di Orcomeno, il che avrebbe esteso il suo dominio sulla pianura copaica e sul monte Lafistio e ne avrebbe fatto l'alleato di Corinto contro gli stati di Atene e di Tebe. La probabile ragione del disperato errare di Atamante in Tessaglia fu la disastrosa guerra combattuta tra Orcomeno e Tebe, ricordata nel ciclo di Eracle. Le furie di Nefele ricordano la leggenda delle figlie di Minia, che furono colte da frenesia bacchica sul monte Lafistio. Tale leggenda veniva considerata l'origine delle feste agrionie a Orcomeno.